ragazzi di Beirut hanno gli occhi dolci e han paura degli americani, dei rumori troppo forti degli aeroplani che passano di là. Carolina, che fai? Non ti spogli più? Dio mio, spegni questa televisione. Ma non vedi, non vedi, non vedi laggiù fra i sobborghi a Perù. Mentre passano i camion e alzano polvere, noi che stiamo qua e ci viene da star male, ci viene da sputare. 2 minuti di pubblicità. Carolina, che fai? Non mi senti? Ehi, Carolina, accidenti. Ma non vedi, non vedi, non vedi laggiù fra i sobborghi a Perù. Ma non vedi, non vedi, non vedi laggiù fra i sobborghi a Perù. Non lasciarmi da solo neanche per un momento, con il cuore esposto al vento, e sei la mia fortuna. Oh, non lasciarmi. Ma non vedi, non vedi, non vedi laggiù questo borghi a Perù. Del dopoguerra e ci offendono con gli occhi, non ci dicono niente, ci guardano in silenzio, solamente come buia la notte qui sul fronte. Senti il cuore come batte, i tuoi riccioli cadono sopra le spalle e mi inseguono sulla pelle. Non lasciarmi da solo neanche per un momento, con il cuore esposto al vento, e sei la mia fortuna. Oh, non lasciarmi.